Investire informati. Qua veramente bisogna attrezzarsi sempre di più per avere tutte le informazioni necessarie per investire in maniera adeguata ai nostri bisogni, ma in maniera anche consapevole. Ora, caro Mauro, non c'è bisogno che lo ricordiamo noi che sta terminando un anno veramente, non voglio utilizzare la parola difficile, utilizziamo la parola molto complicato. Se guardiamo anche a quello che è successo sui mercati finanziari, no? Tante volte l'abbiamo raccontato, io e te, mercati che volano, economia in grande difficoltà, noi l'abbiamo chiamato lo strabismo dei mercati, chiamiamola un po' asimmetria. Di sicuro ci sono molte aziende in difficoltà, molte famiglie che sono in difficoltà e ce lo raccontano direttamente ai nostri microfoni, e dall'altra parte però abbiamo anche molti che continuano ad accumulare liquidità sui propri conti correnti. Siamo arrivati a quota, te la ricordi? No, quanto era l'ultimo aggiornamento? 1700 miliardi di euro fermi appunto sui conti correnti degli italiani, e quindi questo ci genera molti interrogativi. Ma con che approccio stanno risparmiando gli italiani in questo momento? Ci sembrava, per questo anche per dare una risposta da un altro punto di vista a questa domanda, avere proprio un punto di osservazione un po' trasversale, quello di un intermediario finanziario evoluto. Oggi ospitiamo Online Sim, che è una delle più importanti piattaforme digitali per investire, ed è un osservatorio piuttosto interessante per capire come sta cambiando il modo di pianificare le proprie scelte finanziarie da parte appunto degli italiani. E quindi parliamo di quella quota, Mauro, di italiani che investono, perché in molti risparmiano ma non tutti investono, sono due concetti diversi dei quali parleremo questa mattina con la nostra ospite. Vuoi fare gli onori di casa? Ma certamente, è un piacere accogliere qui a Due di Denari, ancorché solo telefonicamente in virtù delle limitazioni imposte dal contrasto alla pandemia, Francesca Giubergia, presidente di Online Sim. Benvenuta a Due di Denari. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito di oggi, è veramente un piacere parlare con voi. Allora, dottoressa Giubergia, da dove vogliamo cominciare? Perché Deborah ha messo lì già discreti carichi, verrebbe da dire, usando un termine delle carte. Anno difficile, hanno contrastato, ma anno in cui i mercati hanno avuto delle discese repentine, ma anche delle risalite, per citare un'antica canzone di Battisti. Vedo che tutti qua, anche Marco Tulli, che pure manco era nato, annuisce. E allora, No, scusami se intervengo, ma Marco Tulli era nato perché lui sembra un po' un eterno Gianni Morandi, ma in realtà qualche annetto ce l'ha pure lui, ormai lo saluto perché sono distante, quindi non mi può picchiare. Allora, insomma, le discese ardite e le risalite dei listini ci hanno messo a dura prova, hanno messo a dura prova le pazienze dei risparmiatori, e probabilmente hanno anche così tenuto lontano più di un risparmiatore dagli investimenti. Come vedete voi la situazione da Online Sim? Quindi avete risparmiatori probabilmente un po' più smart, perché già scelgono una piattaforma e quindi sono già un po' più avvezzi forse a misurarsi con informazioni, mi verrebbe da dire, più evolute. Sì, questo è molto vero. Diciamo che c'è stato proprio un cambiamento dell'atteggiamento degli italiani nei confronti del mondo digitale, che abbiamo visto essere trasversale su vari settori, tra cui sicuramente quello del banking, ma non solo. È uscita un'interessante ricerca di McKinsey, Digital Sentiment Insights, che dice che è aumentata moltissimo la quota di coloro che hanno usato almeno un servizio digitale per la prima volta. Prima della crisi parlavamo di un più 11%, siamo un più 95%. E la cosa interessante è che chi si è rivolto ai canali digitali per la prima volta, in quasi il 70% dei casi continuerà a farlo. Quindi, insomma, questo lascia anche ben sperare per gli importanti investimenti che chiaramente un po' tutti abbiamo fatto sulla sicurezza dei dati, sul cloud, con un'ottica di lungo periodo. Per quanto riguarda il tema della liquidità che voi citavate, effettivamente anche noi abbiamo riscontrato questo aumento della liquidità molto significativo. Diciamo che l'anno per noi a gennaio è iniziato in modo molto positivo. Dovete pensare che in quel periodo avevamo più 50% di richieste di contratti di apertura rispetto al 2019, e la liquidità era attorno al 7-8%, diciamo un cuscinetto totalmente fisiologico. Poi a febbraio ha iniziato a serpeggiare un po' di preoccupazione, ma il Covid era ancora lontano, si parlava della Cina, insomma. A marzo ed aprile invece chiaramente è salito lo stress, è aumentata l'agitazione, però devo dire che i nostri clienti hanno tenuto duro. La liquidità era raddoppiata in questo periodo, è passata al 15%, hanno iniziato a confrontarsi con noi, questo sicuramente è stato molto utile, e ci chiedevano fondamentalmente opinioni sui mercati, cercavano di capire con noi in che direzione investire. E in questa fase devo dire che essere un supporto accanto al cliente è stato di grande aiuto. Infatti non c'è stato panic selling da parte dei nostri clienti, non, per fortuna diciamo che non sono stati fatti quegli errori classici della finanza comportamentale che vanno poi a vanificare un po' le scelte di lungo periodo. Questo è un nostro grande amore. Allora, qui il riferimento penso che fosse da parte dell'ascoltatrice quello alla tassazione, ad esempio, della prima casa, della casa appunto di abitazione. E in realtà, come abbiamo segnalato anche in apertura di puntata, questa proposta di correzione che sembrava essere stata esclusa dalla legge di bilancio, dalla discussione della legge di bilancio, invece è stata riammessa, quindi vedremo se poi sarà effettivamente discussa e eventualmente approvata. Tutto questo per ribadire che è solo una proposta. Pensa di rivedere un po' le varie patrimoniali, almeno alcune delle patrimoniali che già esistono nel nostro paese, e sostanzialmente si guarda agli immobili da una parte e agli investimenti dall'altra, e qui allora la questione passa direttamente nel territorio della presidente di Online Sim, Francesca Giubergia, che questa mattina abbiamo con noi a Investire Informati. Dottoressa Giubergia, la tassazione sugli investimenti può essere qualcosa che in qualche modo scoraggia o, non lo so, porta gli risparmiatori, a suo giudizio, a privilegiare alcuni percorsi di investimento piuttosto che altri? Beh, sicuramente l'ipotesi di una patrimoniale noi non la vediamo con grande favore, nel senso che riteniamo che le tasse in Italia siano già molto alte, sono tra le più alte al mondo, e tra l'altro la proposta che sta avanzando parla di una soglia di 500.000 euro che non è particolarmente alta, quindi significa toccare una grande fetta di italiani. Io ritengo che noi tutti abbiamo attraversato un periodo molto faticoso, stiamo vedendo i primi segnali positivi, abbiamo visto l'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani pubblicato qualche giorno fa da Intesa San Paolo e dal Centro Einaudi, che parla appunto di una crescita di quella che è la propensione al risparmio, che insomma è salita al 20%, che è un livello in realtà che non ha precedenti, e quindi ci sono dei primi segnali molto positivi che lasciano ben pensare rispetto a quella che potrà essere una spinta ai consumi già dal primo semestre 2021. L'ipotesi di una patrimoniale chiaramente rischia di bloccare nuovamente questo fenomeno di ripresa e di consumi di cui noi tutti avremmo un grande bisogno, quindi sicuramente la nostra opinione non è particolarmente positiva rispetto a quest'idea. Bene, abbiamo fatto sbilanciare Francesca Giubergia anche nel territorio politico, adesso torniamo invece nel campo che le è più naturalmente confidenziale. Andiamo al modo di investire delle famiglie italiane. Parlavamo prima dell'incremento di liquidità, abbiamo spiegato che quantomeno i clienti di Online Sim non hanno avuto particolare atteggiamento di panic selling anche nei momenti più difficili del mercato. Vorrei spiegare però un po' che cos'è esattamente l'investimento attraverso una piattaforma digitale, perché quando parliamo di questi modelli si generano molti equivoci. Non stiamo parlando questa mattina di trading online, quindi su questo voglio sgombrare immediatamente il campo da tutte le confusioni possibili, ma parliamo di una piattaforma particolarmente efficiente che consente di investire magari in maniera altrettanto efficiente. Questo non significa il fai da te, dottoressa Giubergia, ci spiega un po' esattamente in che cosa consiste questo modello che vale per Online Sim, come magari anche per altre società simili che possono essere e che sono sul mercato in questo momento. Sì, dunque, noi siamo una piattaforma e l'approccio delle piattaforme si è dimostrato come un approccio vincente in questo periodo, perché è un approccio agile, flessibile, si possono offrire prodotti e servizi con grande rapidità attraverso partnership e open innovation. Quindi sicuramente noi siamo una società che è molto orientata rispetto a quelli che sono i cambiamenti che stiamo osservando, e tra l'altro noi nasciamo come operatori digitali, quindi diciamo che da sempre che abbiamo questo DNA. Di fatto la grande sfida per le piattaforme digitali è sicuramente aumentare il numero dei servizi, dei prodotti offerti. Ormai non si parla neanche più tanto di piattaforma quanto più di concetto di ecosistema. Inoltre un tema importante è che l'esperienza deve essere sì digitale, ma non deve trascurare la componente umana dell'interazione, quindi parliamo di modelli ibridi. Noi per esempio da sempre abbiamo un servizio clienti composto da professionisti, persone che lavorano con noi da tanti anni. Inoltre bisogna utilizzare al meglio i dati dei clienti, dando quindi un supporto tempestivo ed efficiente. Noi siamo ben lontani dal trading online, abbiamo dei clienti che si appoggiano a noi per consulenza fondamentalmente, nel senso che di fatto noi offriamo diversi tipi di servizi che vanno in questa direzione, dei piani di accumulo che abbiamo visto avere per esempio un successo molto importante soprattutto nella prima parte dell'anno, ai portafogli modello di cui viceversa vediamo una grande crescita in questa seconda fase dell'anno, dove appunto la ripresa dei mercati sta riportando positività. Sicuramente una delle grandi sfide per gli operatori digitali come noi è conquistare e rafforzare la fiducia. Sempre la ricerca di McKinsey di cui vi parlavo prima parla proprio di quelli che sono anche un po' i limiti dell'utilizzo del digitale e sono interessanti, nel senso che in effetti il 40% di chi non ha usato il digitale, stiamo parlando di uno su quattro, un cliente su quattro, lo ha fatto perché preferisce parlare con una persona, e nel 24% dei casi non l'ha fatto per un tema di fiducia. E poi ci sono diciamo delle percentuali minori, 18% perché non trovava il prodotto o il servizio o perché c'era una difficoltà di utilizzo che diciamo è più comprensibile soprattutto in settori come l'abbigliamento, altri settori. Il tema della fiducia è particolarmente rilevante per il settore finanziario perché nel caso delle banche questo valore sale al 35%, quindi diciamo che probabilmente la più grande sfida di piattaforme come noi che lavorano sul digitale, nel nostro caso appunto presenti da 20 anni, è proprio la conquista e il rafforzamento della fiducia degli investitori. Ripeto a beneficio degli ascoltatori e delle ascoltatrici il domandone di questo giovedì. Domandone che, se si dà la risposta esatta, ma solo al numero verde, la state già fornendo, qualcuno di voi la sta già fornendo con messaggio WhatsApp. Non possiamo accettare queste risposte. Accettiamo solo risposte al numero verde 800 24 00 24. La domanda alla quale vi chiediamo di rispondere è: cosa significa fintech? Una definizione breve, naturalmente, una definizione telegrafica di fintech, e l'omaggio che vi potete assicurare è quello del libro di Deborah Rosciani e Mauro Meazza, Investire è facile anche nei momenti difficili. E lo sa bene Francesca Giuberge, presidente di Online Sim, che quest'oggi è con noi per Investire Informati. Prego Deborah. Sì, volevo tornare proprio su un'espressione che la dottoressa Giuberge ha utilizzato poco fa, l'espressione portafogli modello. È proprio l'attività di Online Sim poggia sull'utilizzo di queste che possiamo definire delle strategie, però Francesca Giuberge, io vorrei spiegare molto bene il funzionamento di questa modalità di investimento, perché noi siamo molto stressanti nei confronti dei nostri ascoltatori e raccomandiamo sempre loro di affidarsi ad un consulente a cui spiegare bene cosa si cerca, che obiettivi si vogliono raggiungere, cosa bisogna fare per fare una corretta pianificazione finanziaria secondo le necessità individuali della famiglia. E quindi quando si parla di portafoglio modello parliamo di soluzioni chiavi in mano che vanno bene a tutti e non fanno distinzione dei bisogni, o comunque parliamo anche di strategie che un minimo possano essere personalizzate e adattate ai bisogni di un risparmiatore? Parliamo di strategie che assolutamente possono essere adattate rispetto ai bisogni degli investitori. I portafogli modello di fatto servono per accompagnare nelle scelte di investimento, si affiancano all'investitore e suggeriscono quella che è un'allocazione del portafoglio. Questa allocazione può poi essere modificata, nel senso che effettivamente i nostri clienti hanno la possibilità di mettere mano direttamente al portafoglio modello suggerito. Nel nostro caso noi abbiamo in portafoglio Pictet Asset Management, Main Street Partners e UBS, sono tra le migliori società di gestione, in particolare Main Street Partners è un gestore ESG, perché noi crediamo moltissimo che il tema della sostenibilità non sia una moda ma sia un tema di lungo periodo. E abbiamo fornito ai nostri clienti una funzione di selettore, nel senso che il cliente può impostare alcuni valori, per esempio l'età, la sua età, la durata di interesse, la strategia che più interessa, appunto, può essere l'ESG, può essere l'interesse nei confronti dei mercati internazionali, il livello di rischio che è disposto a sopportare. E quindi diciamo che noi possiamo fornire già una prima selezione di quelli che potrebbero essere i portafogli modello presenti sulla piattaforma, adatti a quella tipologia di investitore. E di fatto la scelta è basata anche molto sugli obiettivi, sulle esigenze del cliente, ed è fondamentale che sia così. Quello che lei ha detto ripete un po' alcuni concetti chiave dell'educazione finanziaria, quindi mi viene da pensare che quasi quasi il cliente che si avvicina al portafoglio modello, al vostro portafoglio modello, debba anche fare un pochino di verifica con se stesso, insomma, su quanto è preparato. Voi quanto li trovate preparati? Si dice sempre che noi italiani siamo particolarmente impreparati per quanto riguarda le questioni finanziarie. In effetti è vero, diciamo che in Italia il livello di formazione finanziaria è purtroppo ancora molto limitato. Tra l'altro io ritengo personalmente che dovrebbe essere proprio inserita come materia nelle scuole, nel senso che è veramente poi fondamentale come tema. Noi lavoriamo tantissimo sulla formazione, abbiamo un blog che ha tutta una serie di focus, di scenari, di studi che mettiamo a disposizione della nostra clientela, realizziamo degli ebook dedicati su argomenti come, non so, per esempio i megatrend, piuttosto che anche come investire appunto con i portafogli modello, e abbiamo un'area education che è strutturata su quattro livelli. Da una parte forniamo delle conoscenze economiche e finanziarie, matematico-statistiche, lavoriamo anche su quella che è una consapevolezza dello stile comportamentale, nel senso che per esempio in questi mesi di pandemia la finanza comportamentale è stata molto d'aiuto per spiegare alcuni fenomeni, come per esempio citavamo prima la grandissima crescita del trading, e lavoriamo anche molto sul tema delle abitudini, nel senso che crediamo che l'investimento debba far parte di tutta una serie di sane abitudini, come per esempio la capacità di definire un budget rispetto a quello che è un proprio obiettivo e definire un tempo per raggiungere questo obiettivo. E sicuramente crediamo che i portafogli modello possano aiutare molto in questo percorso. Probabilmente si fa chiarezza, diciamo, l'investitore riesce a fare un po' più di chiarezza in se stesso, mi viene da dire, oltre che a utilizzare questi strumenti che voi mettete a disposizione. Sì, confermo, assolutamente. D'altronde è anche importante capire che cosa si vuole seguire direttamente e che cosa invece si vuole dare in delega. È importante anche rendersi conto di che cosa significa la volatilità del portafoglio, sì. L'abbiamo visto particolarmente in questo periodo, e quindi tutto ciò, diciamo, deve essere poi allineato rispetto a quelle che sono le proprie esigenze. Noi per esempio abbiamo visto in questi mesi crescere moltissimo quelle che sono le esigenze di sicurezza e di copertura rispetto alle proprie necessità, proprio perché stiamo vivendo una nuova normalità fatta anche molto di anziani che in qualche modo si appoggiano alle famiglie, che hanno delle esigenze di spesa di un certo tipo e su cui di fatto poi è tutta la famiglia ad applicare una pianificazione, ma anche di giovani che con il mercato del lavoro che stiamo osservando fanno magari più fatica rispetto a un tempo a raggiungere una propria indipendenza economica e che quindi hanno bisogno di appoggiarsi alla propria famiglia. Ecco, diciamo che in quest'ottica il tema della pianificazione è di nuovo un tema a noi estremamente caro, perché ovviamente è quello che consente alle famiglie di raggiungere un certo livello di serenità, ma questa pianificazione spesso e volentieri non si può fare in totale autonomia, può essere molto utile viceversa appoggiarsi a un soggetto competente e ricevere consulenza in modo da essere più sicuri che i propri investimenti vadano nella direzione dei propri bisogni e dei propri obiettivi.